Molto bene, molto bene. Siamo tornati qui nella situazione di ciclobar, non a camera d'aria, sia chiaro, ma in un'altra situazione comunque ciclistica. Ci hanno raggiunto alcuni amici, non so se ci hanno raggiunti fisicamente o forse semplicemente digitalmente. Siamo qua con alcuni amici appunto di ciclobar che salutiamo. Ciao amici, ciao amico 1. Ciao. Ciao amico 2. Ciao, sono amico 2. Ottimo, ottimo. Quindi direi, prima di partire con una puntata ricca, perché sono successe tante cose, diciamo, da quando abbiamo smesso appunto perché ci fu quella sfortuna della chiusura di tutto, e io farei una bella sigla. La vogliamo fare un po' più unplugged, amico 2, o la facciamo sempre? Unplugged, più unplugged. Toni più, un attimo più smorzati oggi. Quindi io direi siglina, unplugged, e iniziamo con la puntata di ciclobar. Ciclobar. Veramente, veramente soave, ricordava un po' il cambio in discesa della bicicletta. Allora, amico 2, io per che marcia, io direi la terza marcia, la ridotta, amico 2, lei cosa ricordava questo suono di ferraglia? Il suono di ferraglia non può che ricordare il grande amico di Camere d'Aria che purtroppo ci ha lasciato, e stiamo parlando di Vituzzo. Questa puntata la Ciclofficina la vuole interamente dedicare alla memoria di Vituzzo, che, come recita lo striscione che è appeso fuori a Camere d'Aria, chiusa per le repressioni, le leggi repressive attualmente in vigore, lo striscione fuori appeso fuori camere d'aria recita così: non ripareremo mai la tua mancanza, ciao Vitù. Quindi questo è il saluto accorato, unanime, che vogliamo rivolgergli. E adesso nell'immenso archivio di Radio Spore andiamo a cercare il primo pezzo da dedicargli che lo rappresenta, e si tratta di Sicilia Beggia nella versione di Roy Paci e Aretusca. È il primo di questi saluti che vogliamo fare a Vituzzo, perché ovviamente è un pezzo che lo rappresenta moltissimo, e ci tengo a precisare che questo pezzo è stato scelto dalla Ciclofficina in maniera unanime, assolutamente, e mi sono permesso di scegliere la versione di Roy Paci e Aretusca per l'occasione, e ce l'andiamo ad ascoltare. Ciao Vitù. Sicilia bella, voglio giocare con la fontanella. Sicilia bella, Sicilia bella, ma manca sai correre in la manetta. L'occhio di miria ci hanno sempre a mangiare, quando la terra volo sanno sogare. Gli alliscia che alle case fanno ragione, caso pre tempo fanno case e casone. Sicilia bella, Sicilia bella, preda di fuoco e di soffarella. Sicilia bella, Sicilia bella, ci sento cuore e nasce da moretta. Pensare che sopra lo scritto sarà una grande uomo che lo farò scurerà, che tutti i pesci mescheranno a panzallare a lui di fora. Aspetto solo che qualcuno ci uno mora. Sicilia bella, come un sole, come una stella. Sicilia bella, Sicilia bella, gli altri che andiamo con tante stornella. Proverbi frasi con termine menagli, gli hanno parole come tante denagli. spacca il limione, dammi un'altra fetta. Questo finale faccio un voto, ricoraggiamo gente. Siamo tornati qua da ciclobarra, in ciclobarra in senso ovviamente lato e metaforico, e direi che dopo questo primo brano dedicato a Vito, io comunque introdurrei un momento di sproloquio, amico 2. Buonasera amico 2, come amico 2 posso dichiarare che c'ho ancora il bozzo in testa e sono caduto sulla ciclabile di via Albertoni, che sarebbe una di quelle che sono tranquille perché non ci sono macchine, però i pedoni si attraversano, insomma mi hanno fatto cadere, un pedone diciamo mi ha fatto cadere, ecco, ho battuto la testa, voi manco lo sapevate, ma ve lo so. Addirittura, attenzione perché è nuova anche a noi questa news bad, direi, bad news. Questi giorni tragici di lutto, in più mi sono beccato, era proprio il giorno dopo che è successa la storiaccia del povero Vituccio, mi sono beccata una povera pedona che attraversava di spalle dal portico di via Albertoni, attraversava inconsapevolmente la ciclabile, complice la pioggia, sono caduto male, ho battuto la testa, porca miseria. E devo dire che anche ho notato che comunque se non c'è il Covid, ero davanti all'ingresso preciso del pronto soccorso, non ti pensano, puoi anche battere la testa e morire. Ah, quindi c'è... Come sproloquio non mi sento dati i toni smorzati, mi sento di fare questo fioretto senza parolacce, cose, ma non lo so. Cioè vorrei così invitare tutti a riflettere sulla pericolosità della mobilità insostenibile che si continua. Quindi da parte dei pedoni questa volta, non soltanto autovetture. Io devo dire che il pedone medio, bolognese, mi sa italiano in generale, non ha consapevolezza della pista ciclabile, non ci guarda. Io stesso quando sono in bici odio il pedone, quando sono a piedi odio il ciclista. Abbiamo un amico 3 che vuole dire qualcosa. Confermo, i pedoni sono ciò che è più pericoloso in assoluto quando vai in giro in bici. Ti si buttano in mezzo alla strada o ti tagliano la strada mentre tu vai in bici, perché della bici non hanno paura assolutamente. E rischia di farti fare gli incidenti più peggiori in assoluto. Ma no, è vero, io ricordo in via San Felice, in via Saffi, che c'è quella, presente amico 2, la pista ciclabile di via Saffi, che è rischiosissima quella pista perché è tra le macchine parcheggiate e i portici. Una volta ho rischiato di seccare un cinno, amica 4, un cinno. Che può essere peggio. Che può essere peggio, avrei potuto anche la testa dalla velocità. Più cinni, più bici e meno macchine e meno pedoni distratti. Anche per tutti quei pedoni lì sicuramente guidano un SUV. Insomma, quelli di 4 anni no, però... Lo guideranno sicuramente, lo guideranno. Però sì, se hanno il pisellino piccolo guideranno un SUV da grandi. Quindi... Poi gli cresce questo pisellino piccolo. Ragazzi, rimane. Ah, io intendo che se uno guida un SUV, per me ce l'ha proprio piccolino, lì per compensare guida il SUV. No, ma ci sono anche, penso, degli studi antropologici su questa cosa qua. Adesso chiederemo agli amici antropologi se hanno fatto studi a riguardo. E chi guida lo scooterone invece? C'ha il sederone, sicuramente. Ti viene sicuramente. Beh, sicuramente anche lo scooterone può essere sintomo, almeno parlando con alcuni amici medici antropologi, di micropenia. Adesso direi che mandiamo un brano, lubrifichiamo ancora la situazione con un brano. Aspetta, amico 2, non vorrei... Si eravate partiti già con la selezione. Seguiamo la scaletta. Cioè, non... Un altro brano da dedicare direttamente alla memoria di Vituccio. perché questo me lo, questo l'ho scelto personalmente. Ed è Broken Bicycles di Tom Waits. Diventiamo un po' tristi, ma ci sta, perché siamo tristi oggi e lo saremo per un po', ma speriamo che non ve lo faremo sentire. E vai, Tom Waits. Ciao Vitu. Ciao Vitu. Broken bicycles, old busted chains, rusted handlebars out in the rain. Somebody must have an orphanage for all these things that nobody wants anymore. September's reminding July, it's time to be saying goodbye. Summer is gone, but our love will remain like old broken bicycles out in the rain. Siamo tornati, ci chiediamo scusa a tutti e tutte per l'audio che sembra essere danneggiato. Ora stiamo cercando di risolvere il problema tecnico. Potreste farci sapere da fuori se sta andando male. Esatto, potete scrivere direttamente su Stereodon, su FB, o mandare un messaggio, un SMS all'1312. Ma ora siamo tornati qua al si sente molto male, amico 1? Sente diverso, vabbè. Siamo qua comunque nel momento astrologico. Siamo con Mostro Ciliegio. Un Mastro Ciliegio. Amica 4? No, amica 4. Oggi abbiamo una... Perché oggi abbiamo appunto l'astrologia. Siamo tornati alla ribalta con l'astrologia ciclistica. Non è ciclistica, raga. È scoppiata. Ve la passo. Fantastica. È scoppiata, super fica. Allora, iniziamo dal primo segno che è l'Ariete. Ariete, cornuto, cornetto e cappuccio. Toro, di zeppole in birrette. Gemelli, conta alle pause caffè. Cancro, ciscospetto zampetto nel sugo. Leone, fermo o sparo cozzate. E ovviamente qua guardo Gege perché è il suo segno e ne spara tantissime. Vergine, scarpe calde e mate. Bilancia, ma quanto è bello andare in giro col cioccolato nel cuscino. Scorpione, semi di vino e mani pulite. Sagittario, fagottino, la tua freccia è di zucchero filato. Questa è dedicata ad Ugo, che ci proverà sempre comunque nella vita. Capricorno, pinne in faccia e carciofi in testa. Acquario, L'ombrello lo porto domani. Questa è Betta, ovviamente, perché pesci, fulmini e polpette. Piovono bambini senza pannolini sul pianeta rosa. Gegè commenta qualsiasi cosa. Betta conosce la ricetta segreta dell'immortalità e tutto il resto. Fa rutto alla storia. Così sboccato e così in faccia che questa si incazza e ci cazza con "Look down, bastard". Abbiamo capito che anche oggi è un'altra giornata pacca. Sì, quella che ti do io sulla spalla. Io, te, voi, gli altri, le altre, tutto sulla stessa barca. Speriamo che non sia Schettino a guidarla. Schiettamente il vostro mastro ciliegia. Che sta una favola. Ciao mastro! Oh, ragazzi, mastro ciliegio, il pubblico è invisibile! Allora, amico 2. Cicloroscopo coi fiocchi. E comunque vorrei aggiungere una cosa: per tutti i segni zodiacali di tutti gli oroscopi, venerdì è prevista Critical Mass a Bologna. Cosa possiamo andare per scaldare un po' gli animi di questi ascoltatori in vista della Critical Mass che sarà? Venerdì, ultimo venerdì del mese, e noi ci andiamo a sentire. Noi siamo il traffico dei Tête de Bois, grandi sostenitori della Critical Mass, gruppo assolutamente prolifico in campo musicale riguardo la bici, che ci siamo già andati a sentire in passato, e in particolare siamo andati a sentirli niente che meno che con gli Assalti Frontali, con Alfonsina e La Strada. Ma questa settimana è critica, e quindi noi siamo il traffico, Tête de Bois. Noi siamo il traffico, noi siamo il traffico, noi siamo il traffico, noi siamo il traffico. Caos e ci portiamo le macchine, tutti in gruppo sulla tangenziale, vogliamo aria e strada senza catrame, e acqua e terra da bere e coltivare. Noi siamo il traffico, noi siamo il traffico, noi siamo il traffico, noi siamo. Passiamo la notte a benedire una bici che dorme allacciata ad un vecchio lampione, catena leggera, preghiera ogni sera, pisciata di cane proprio sul cerchione. Siamo il traffico, noi siamo il traffico, che ogni mattina si incontra per caso e si incammina, che non fa proclami e agisce distinto, che non si scrive all'alba e a niente obbedisce, che gira, gira e vola, che muove i piedi e vola, rivive la corsia ed esce sull'aiuola. Thank you. e vecchio si trasforma. Se strozzato si vernicia, se passato si riaggiorna, se si rompe si ripara, che se vecchio si trasforma. Stato si vernicia, se passato si aggiorna, se si rompe si ripara, se se vecchio si trasforma. Abbiamo passato proprio in questo istante il cartello che segnala 8 chilometri al traguardo. I tre sono sempre insieme. Ci avviciniamo ad un altro tornante. Mancano a questo punto 27 tornanti. 27 tornanti alla cima dello Stelvio. Caldos, Bertoglio alla sua ruota. Perletto in leggera difficoltà. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ottimo, ottimo questo brano di... Tu hai detto De Bois, noi siamo il traffico, amico 2, ma che ne so, vogliamo un po' rinfrescare la memoria dei nostri radioascoltatori sulla Critical Mass, che è appuntamento fisso delle nostre puntate, un attimo ribadire il concetto della Critical. Gabriele, una cosa sul concetto di Critical Mass, un attimo. È un concetto che bisogna ribadire. Vediamo. Rispetto per gli attori della strada più indifesi, per cui i macchinoni devono smettere di fargli arroganti e di prendersi gli spazi sempre di più, sempre di più, e quindi lasciare lo spazio anche alle biciclette, che è giusto che vadano per la strada. Poi ci stanno anche i quando andare sulla ciclabile, però non è detto che debbano andarci solo le biciclette sulla ciclabile, per lasciare poi tutto lo spazio alle macchine che spandono. Anche perché a volte, come poc'anzi stavamo dicendo, i SUV e le macchine te le trovi sulle ciclabili pure. Il SUV cioè, può scatenare solo parolacce, questo possiamo dire del SUV. Cioè, se... Come scusi? Specie quelli che hanno quattro marmitte, proprio a loro le peggio cose. Due, insomma, non è che, però quattro, insomma, basta con queste marmitte, basta con questi SUV, compratevi la bici, cioè, venite a costruirvi la bici a Camere d'Aria quando riapriremo, ma sempre le stesse cose devo dire, cioè, ma respirate e la sentite un po' l'aria, non lo so, cioè. Una bella marmitta, saccate una bella marmitta e ci montate le ruote alla marmitta. Il meteo, che non dovrei neanche nominare perché è un sito di merda, ecco, mi hai visto, alla fine siete riusciti a farmela scappare pure stasera la cosa. Dice che la qualità dell'aria questa sera nella città di Bologna è scadente dalle 19 fino alle 3, no 4. Dice che è scadente, neanche mediocre, sì, scadente, cioè queste, cioè sono cose che sono davanti agli occhi di tutti, sono evidenti, inutile. Purtroppo bisogna lottare contro i mulini a vento della gente che non si accorge minimamente dell'aria che respiriamo. Sarebbe semplice, no? Ogni momento respiriamo, pochi secondi puoi stare senza respirare, addirittura più importante dell'acqua. Molto meglio la bottiglia infilata, no? Se vogliamo ricreare il rumore tipico del SUV o della motocicletta, si infila la bottiglia nel tubo di scappamento. No, nel dietro della la ruota dietro della bici. Ah, bello. Invece di comprarvi il SUV, microfenisti che non siete altro, vi fiate una bella tessera telefonica di quelle che c'erano una volta, ve la infilate dentro la forcella e andate così e fate i grossi così in mezzo alla strada. Cosa dedichiamo a questi? Che frustrati! A questi frustrati cosa dedichiamo? Mi sa che dobbiamo continuare con il discorso critica al mass, quindi massa critica dei Mirafiori Kids, che vi abbiamo già proposto, però questa settimana non ci possiamo esimere, scusate, dal riproporvi, scusate questo linguaggio aulico forbito. No. Anche questo pezzo, come tutti gli altri, è dedicato alla memoria di Vituzzo, che anche lui partecipò a una massa critica, ci dicono gli amici. Abbiamo Betta. Betta. Betta. Allora, abbiamo detto Betta che ci vuole dire due cose. Volevo ricordare che ci sono tante cose da ricordare di Vito e passiamo il microfono a degli amici che vogliono ricordare, per esempio, la prima volta che è venuto in cicloffa. Allora, parliamo di Vito, che Vito venne a, insomma, in cicloficina, che aveva una bici da aggiustare, la prima volta che venne portava questa bici che però non pedalava in modo come si dice convenzionale, bensì era seduto sul portapacchi, quindi pedalava dal portapacchi. E niente, quindi è entrato dentro con la sua solita simpatia e praticamente abbiamo cominciato ad aggiustare un po' il cambio, un po' abbiamo regolato i coni. Di me non si fidava e si fidava più di Gabriele, ma comunque insomma a pelle si fidava più di Gabriele. Però insomma poi uscì contento perché disse verrò spesso. Ma domanda volevo farti, tu ti ricordi se già quella sera stessa lui se n'è andato intorno alle 11:30, mezzanotte, l'una, dopo aver detto una, due, tre volte vabbè ragazzi me ne vado a casa, me ne sta chiudendo, buonanotte, e invece poi restava? Mi ricordo che le prime volte non stava molto in ciclofficina. Allora, la via confidenza si vede. Invece poi si abituò, sapendo che noi stavamo anche fino a tardi, si abituò a venire anche ad orari un po' diciamo notturni. E la cosa bella, cioè un episodio divertente è stato una sera e stavamo chiudendo la cicloofficina tipo verso le 11:30, arriva Vito, stavamo già, cioè il battente era già quasi chiuso, si è infilato proprio nella fessura della porta, classica mossa da non so venditore porta a porta, trascinando dentro una lavatrice. Ah, bravo. E noi gli abbiamo detto subito: guarda Vito, non puoi smontarla qui perché ormai stiamo chiudendo, non ce la puoi fare. Infatti questo è uno dei ricordi che Monica c'ha anche proprio bella presente, perché è stata proprio lei anche a dirgli: no guarda, sì, stiamo chiudendo, ma io no, che c'entra, devo solo posare. E non fu così. Esatto, nel tentativo di posare dentro la lavatrice, però praticamente doveva solo lasciarla. E disse: prendo questa cacciavite, un attimo che gli do un'occhiata. E tempo, insomma di rippo, di rappa, se basta sì, un'ora, un'ora e mezza. Esatto, praticamente aspettando Vito che smontasse la lavatrice, passarono almeno 2-3 ore. Noi eravamo qui che attendevamo lo smontaggio totale della lavatrice. Però dobbiamo anche ricordare che con quella lavatrice non si è capito cosa si è fatto, come si chiama qua? Il compressore, mannaggia, non me ne veniva. Il compressore è tutto merito suo, perché fu lui che recuperò un motorino da un frigo e riuscì a fare, non so, quantomeno l'inizio del progetto, cioè a tenerlo da parte e poi a realizzare questo compressore che è ancora fieramente qui con noi. Anzi, se vogliamo salutarlo, vediamo se ci risponde. Forse non ci risponde perché non riusciamo a portare il compressore. Sì, è attaccato. Senti, porta qua il microfono. Aspetta, sentiamo la voce del compressore. Compressore, ti ricordi di Vito? Come no? Mi ha aggiustato ultimamente insieme all'amica numero 4. Quindi gli vuoi bene? Come no, una cifra. Ciao Vito. Ciao Buon Vito. Viaggio. Ma poi aggiustino i compressori della camera d'aria. L'amico numero 6. L'amico Florian vuole raccontare. Quindi io racconto una storia che è successa nel 2015. Ero trasferito da Milano appena a Bologna e per primo conosco Francesco, che poi mi presenta Vito. Un giorno lì sui viali a Porta Massarenti, lì Porta San Vitale, mi ferma un tizio e mi fa: guarda, ho litigato con la mia ragazza e gli ho regalato una bici e poi la mia ragazza me l'ha dato, ci siamo lasciati, me l'ha dato indietro, quindi te lo vendo a te, una bici quasi nuova. E gli ho detto: quanto vuoi per questa bici? Lui mi fa: voglio 30 euro. Io contento lo prendo e vengo qua e gli dico: Vito, guarda, un tizio mi ha venduta una bici di buona per 30 euro. E Vito dice: scusa, ma una bici di 200 euro lui te lo vende per 30 euro?

siamo qua adesso con un altro amico, amico numero 7. Ciao amico numero 7, non in ordine di importanza, sia chiaro, eh. Ciao amico numero 0, come stai? Ma bene, bene, tu invece come ti senti in questo momento? E devo dire un po' freddo, quindi abbiamo già messo il doppio pantalone e dormiamo col cappellino alla sera, però niente, questo ci mantiene giovani, con la pelle proprio così bella. Infatti devo dire che amico numero 7, almeno alla vista, provo anche al tatto, la pelle è molto molto molto molto molto, come si dice, soda. Per caso usi una crema a base di bava di lumaca o sperma di mucca, per favore? Bava di lumaca e avocado. Okay. No, beh, c'era anche lo sperma di lumaca, ma questa è un'altra puntata, ne parleremo poi nella prossima puntata. Con questo facciamo un bel risotto che volentieri un giorno ci riuniamo. Esatto. Si manteca bene, antica tecnica bergamasca al posto del burro. Cioè, cos'era? Gorgonzola e radicchio e sperma di lumaca per mantecare. Ma siamo qua invece che parlare di culinaria per parlare di un'altra cosa, o no, amico numero 7? Infatti, siamo qui perché vogliamo comunicare un po' così a titolo informativo e a incitare a passare un po' la voce che il giorno 12 dicembre staremo facendo un live streaming qui a Camera d'Aria, in cui proveremo a scambiare l'energia di tutti i residenti artistici che stiamo qui e gli amici e famiglia della Camera d'Aria, che proporremo una specie di programma di TV online in cui si esporranno tutti i numeri di questi artisti, a modo di raccogliere i fondi per uscire un po' da una crisi economica che sta passando un po' la Camera. Si sono sommati un po' un paio di numeri che prima non c'erano lì, e abbiamo avuto un po' la sfortuna di una multa anche grossa, e certamente in questi tempi autogestirsi sta un po' difficile in questi spazi artistici così. Quindi avremo bisogno, ragazzi, del vostro aiuto, e questo per questo siamo in questa proposta. Così di unire tutte le nostre forze per fare vedere un po' l'allegria della famiglia di Camera d'Aria in una puntata questo sabato 12 dicembre verso il mezzogiorno, dove oltre le specialità culinarie di Beta ci approfitteremo quelli che siete dell'altra parte dello schermo, di spettacolo di clown, di concerti di cumbia, saranno dei giochi interattivi. Avremo un'intervista con tutti i laboratori che vengono praticati qui a Camera d'Aria, quindi niente, faremo una bella riunione, ognuno alla sua casa, e con lo scopo di prendere un pochino di energia economica verso un conto PayPal che avremo un po' lì aperto per ricevere questi abbracci. Per la sopravvivenza di Camera d'Aria. Purtroppo niente. Detto meno sudamericano. e niente, il Che Guevara farebbe lo stesso. Io también. E Beta anche. E niente, quindi unirsi in questi momenti dove no, si mettono difficili. È bello perché la famiglia si fa vedere tutta unita e sempre con voglia di spingere questo posto che tutti vogliamo tanto bene, no? Che da. E Vituzzo ci aiuterà da dove sta. Esatto, e la Santa Cumbia anche. Ottimo, sì, sarà sicuramente una giornata succulenta sia a livello artistico che a livello culinario per l'amica numero 5. Che brano mandiamo, ragazzi? Comunque seguiranno aggiornamenti sia su internet che su Stereoton, che sui prossimi episodi radiofonici, per poi vederci tutti sui grandi schermi di Camere d'Aria. E che musica vogliamo? Sì, amico numero 7, ci dia un pezzo. Invitiamo un pezzo della nostra composizione, una cumbia, super cumbia della Liga dell'Allegria, si chiama La vita sta hecha para otra cosa. Me lo inserisca lei nel terminale, che io sennò. Che questo è un pezzo che ho messo oggi pomeriggio per ricordarmi da sola che la vita è fatta per qualcos'altro, non per questi lockdown, sì, insomma, quindi cerchiamo la vita, sempre e comunque. E quindi Super Cumbia e l'allegria della, no, e la Liga dell'Allegria. Ai ai ai ai ai. La vita sta hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. Mosqueta, ya vuelo de coqueta, de tanta careta ya no vas a la pileta. Marta querida, pásalo de tu tía, ya sabes cómo te quiere, te espera todo el día. Carlos amigo, usemos los domingos, vayamos al parque, dejemos los partidos. Walter hermano, ¿qué pasa con trabajo? Cambiamos la rutina, porque mucho pues algo, que la vida está hecha pa' otra cosa. Ay, que la vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. Ay, que la vida está hecha pa' otra cosa. Noche cuando duermo me hago chiquito, pa' entrar en cualquier sitio, pa' no hacer tanto ruido. Luego a la mañana vemos. Que de noche cuando duermo me hago chiquito, pa' entrar en cualquier sitio, pa' no hacer tanto ruido. Luego a la mañana vemos. ¿Qué es lo que vemos, Manuel, de esta cumbia? ¿Qué haces? ¿Qué haces con el estrés? Baja de los patines, activa ese par de pies. Ay, Nancy, querida, siempre con las cobijas. Que ese polvo no existe, usted se lo imagina. Carmen, Cristina, paren con la bocina. Vayan en bicicleta, disfruten de la... Ramiro, José, todo el día lápices. Y esa ropa verde linda que se quemó en el PC. Que la vida está hecha pa' otra cosa. Que la vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. Aquí la vida está hecha pa' otra cosa. Sitio pa' no hacer tanto ruido. Luego a la mañana vemos. Que de noche cuando duermo me hago chiquito, pa' andar en cualquier sitio pa' no hacer tanto ruido. Luego a la mañana vemos. Ay, que la vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. Ay, que la vida está hecha pa' otra cosa. Tenemos cumbia, señora. Gege, cioè, amico tuo, scusa. Ormai, oggi, veramente, abbiamo smascherato Clark Kent e Superman. Io, personalmente, mi sembra che siamo arrivati quasi alla conclusione. Se vogliamo fare ultime considerazioni, chiedo a tutti qua in ciclo, in qua nel ciclo in senso lato, nel reale ciclo, se vogliamo fare considerazioni, se no mandiamo un ultimo brano. Attenzione, qua chiedo un attimo all'amico 1 se c'è una cartina. Non c'è la cartina. Chiedo a qualche radioascoltatore se avete una cartina di venirsela a portare in una stanza X che non è camera d'aria. Nel frattempo e stiamo aspettando appunto l'ultimo contributo della giornata. Amico 1 vuole dire qualcosa? Vuole dire qualcosa su tutto quello che abbiamo detto in questa giornata? Attenzione che c'è anche l'amico 3. Volevo dire un semplice aneddoto ciclistico, che stamani per fortuna ringrazio appunto questa zona arancione per far sì che tutti i bar del Pratello fossero chiusi quando questa mattina sono caduto, e così non ho fatto la figura di merda che avrei fatto se invece tutti i bar fossero stati aperti. Amico 3? Mitico, meno male che... che finisce, sì, cioè, meno male che finisce e che la prossima volta stai più attento, così non cadi e i bar saranno tutti aperti ancora. Quindi sarò, ragazzi, sicuramente più attento. Ragazzi, noi ancora da qua salutiamo la mancanza di Vito, che non ripareremo mai, perché questa cosa qui non la sappiamo riparare. Poi magari in futuro impareremo anche quello. L'elettricità, diceva. Ci piacerebbe, chiaramente, sarebbe il massimo, ma per ora non possiamo. Insomma, e quindi mandiamo un pezzo di nuovo. Mandiamo di nuovo Sicilia Bedda, sempre dedicata a Vituzzo. Sicilia bedda, voglio giocare con la fontanetta. Sicilia bedda, Sicilia bedda, ma manca sai correre in davanetta. L'occhio di miria ci hanno sempre a mangiare, quando la terra volo sanno sugare. Gli alliscia che alle case fanno ragione, caso pretempo fanno case e casone. Sicilia bedda, Sicilia bedda, preda di fuoco e di soffarella. Sicilia bedda, Sicilia bedda, ci sento cuore in uscita. Sicilia bedda, Sicilia bedda.